chat nella sezione Assicura la salute con Unipol Banca e mandaci le tue domande. Messaggio pubblicitario. Prima di aderire al piano sanitario, leggi il fascicolo informativo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto e benvenuti a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo in collegamento con Cannes, quindi parliamo di cinema, parliamo con due registi che rappresentano l'Italia con un cortometraggio a Cannes e sono però nati in Iran. Sono due registi iraniani che hanno vissuto in Italia, hanno studiato cinema e hanno presentato questo cortometraggio Il Silenzio, e ora vi facciamo sentire, prima di presentarli, un breve passo proprio tratto da questo cortometraggio, Il Silenzio. Can you ask her if it hurts here where I'm touching? What? Can you ask her if it hurts, if she feels pain here? دایه تالی کسیت بگری دیشه ایگا باشه بگری قسم آدم یه نهش اصف دیدش شی سس نو شی فیل پین ات فیرست پوینت یو تاچ Vorrei sapere se c'è un interprete dal curdo nell'ospedale. Curdo? Grazie. Avete chiesto anche tra gli studenti, qualcuno che sappia tradurre minimamente il curdo? No, 2 giorni è troppo tardi. Una paziente qui che deve essere ricoverata immediatamente. Va bene, grazie. Ali Asghari, benvenuto innanzitutto a Indovina chi viene a cena. Grazie. Insieme c'è Farnoush Samadi, anche lei iraniana, anche lei una delle registe di questo corto che è stato presentato a Cannes, che si chiama Il Silenzio. Benvenuta anche Farnoush. Grazie, grazie mille. Allora, questo cortometraggio, innanzitutto per chi non l'avesse visto ancora, racconta di una donna, una rifugiata curda in Italia, e di sua figlia Fatima. Durante la loro visita in ospedale, questa bambina, questa ragazzina, deve tradurre ciò che la dottoressa sta dicendo a sua madre, ma non riesce e si chiude in questo lungo silenzio. Il film gira intorno a questo tema della comunicazione e della difficoltà di comunicare in quanto stranieri in Italia. Ali, lei è arrivato in Italia per studiare cinema, quindi è una situazione che lei probabilmente ha conosciuto. Certo, certo. Sempre quando vogliamo scrivere una sceneggiatura, sempre cerchiamo nella nostra vita normalmente che quello che è successo nella nostra vita o nella mia vita. Quindi anche per questo corto abbiamo cercato molto quando volevamo scrivere questo corto. Perché Farnoush aveva una idea del genere, anche aveva vissuto una esperienza del genere, ma non così grave. Quindi quando mi ha raccontato questa storia, abbiamo deciso di scrivere una sceneggiatura che parla di una tema del genere, ma allo stesso tempo sempre volevamo fare un cortometraggio, un film che parla di bambini, di migranti o rifugiati che vengono fuori dal loro paese, perché questi bambini sono sempre escono ma senza nessun volere, qualche volta e sempre sono silenzi senza poter dire niente, quindi questo era sempre importante per noi, che dire una storia che parla di bambini, di rifugiati che fanno un'esperienza molto grave quando sono fuori. Quindi queste due idee abbiamo mischiato, queste due idee, e siamo arrivati a questo film. Farnoush, diceva lì che questa è stata in parte una sua esperienza personale? Sì, ho avuto un'esperienza tradurre qualcosa simile per non simile così grave per mia amica. Stava male, siamo stati in ospedale, lei non poteva parlare bene, io dovevo tradurre per lei. E quando la dottoressa stava parlando con me, io sempre stavo pensando se la dottoressa dice una cosa un po' grave, come devo tradurre per lei, ma meno male non era qualcosa così. E poi è rimasto nella mia testa questa storia, che comunicare sicuramente anche per i dottori quanto è difficile questa situazione, non è soltanto per immigration, secondo me per anche i dottori è molto difficile. Sì, ho avuto questa esperienza, rimasto, abbiamo parlato e poi con Ali abbiamo cominciato a cercare la vita di questi rifugiati e poi siamo arrivati a questa. Queste due interpreti, questa signora e questa ragazzina, sono attrici professioniste? No, no, assolutamente no. Come le avete trovate? C'era un campo di curdi vicino dove studiavo. Ogni tanto andavo lì, conoscevo quella signora che sarà nel film la mamma. E poi abbiamo chiesto per una bambina, un'altra bambina, una bambina curda da 12 anni. Non abbiamo trovato a Roma, perché prima era storia per una mamma e una figlia afghana e poi non abbiamo trovato, abbiamo pensato di cambiare con una famiglia curda. Ci hanno detto che c'è una bambina 12 anni che sta a Torino, magari potete parlare con lei. Abbiamo parlato senza provare, senza vedere direttamente, abbiamo fatto Skype e abbiamo detto va bene. Devo dire che il volto di questa ragazzina è molto intenso. Gran parte della commozione che arriva alla fine di questo cortometraggio dipende anche da questo volto, da questa capacità di espressione molto brava. Sì, io penso che queste cose che noi vediamo nel film, che sembra che lei, la bambina, è molto professionale, viene da esperienza della quella bambina, perché quando noi abbiamo parlato con la bambina per spiegare la situazione del film, che, per spiegare anche il personaggio suo, lei ha detto che no, io ho avuto questa esperienza perché loro stanno in Italia da 10-12 anni e la sua mamma non parla neanche una parola italiana. E lei ha detto che io sempre vado con mia mamma in ospedale per tradurre. Penso che la bambina era proprio il suo personaggio nel film. Ali, la presenza tra l'altro dei bambini, della loro innocenza, del loro sguardo è una presenza consueta nel cinema iraniano, penso al palloncino bianco del grandissimo Panahi, ma molti altri anche, questo sguardo nello specchio, è un caso? Sì. Infatti il cinema iraniano, sì, come lei ha detto, sì, abbiamo una tradizione molto lunga nella lavorare con bambini. Anche io avevo lavorato con altri film con i bambini, quindi penso che questa innocenza dei bambini sempre porta le cose molto pure per la nostra vita, anche nei film quando c'è un bambino, vediamo i bambini in uno specchio senza nessun senza niente. Quindi quello che volevo dire, questi bambini sono infatti hanno una origine molto molto pura. Quindi per noi, anche per questo film, anche era molto importante, come ho detto, lavorare con un bambino che può essere un simbolo del silenzio di tutti i bambini del mondo. Ci fermiamo un attimo, torniamo a parlare di cinema e Iran tra pochissimo. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Fino al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Ali, qual è il suo punto di riferimento per il cinema? Ho citato alcuni dei grandi cineasti iraniani perché appunto l'Iran ha una grandissima e importante tradizione che anche noi in Occidente abbiamo imparato a conoscere, ma i suoi riferimenti sono più italiani o più iraniani? Perché lei ha conseguito il diploma in Italia come regista, no? Sì, ho studiato a Roma 3, cinema del mondo. Tutti i registi grandi hanno una cosa in comune. Per esempio, il cinema iraniano è famoso per un genere del cinema che è un po' più o meno simile al cinema italiano, il neorealismo. Quindi io, essendo iraniano, vivendo in Italia, per me è una cosa in medio, diciamo, che per me ci sono tanti registi italiani che mi hanno dato tanta ispirazione, anche i registi iraniani come Kiarostami, Panahi, anche Farhadi, che sono sempre mi hanno ispirato nella mia vita di cinema. Ha fatto bene a citare anche Farhadi, che è un altro grande regista. Sì, anche ha un film qui a Cannes, quindi... Mi veniva in mente, per quanto riguarda l'utilizzo dei bambini, dello sguardo dei bambini, non tanto dei bambini come presenze, ma come sguardo di innocenza, anche per Ladri di biciclette, no? Certo, Ladri di biciclette, anche tanti altri film italiani, anche iraniani, come i film di Makhmal Bhatt, di Kiarostami, anche ci sono tanti sguardi di bambini nei film, sì. Forse è molto simile, adesso che lei ha detto Ladri di bicicletta, il silenzio del bambino nel film, secondo me è simile, molto simile al silenzio nostra bambina, perché pure quel bambino sempre guardava, vedeva tante cose, ma forse non parlava, non diceva niente. Anna Moa. Morta, ammazzata, per morta, ammazzata, ma chi ce lo fa fare sta qui a tribolare? Andiamo via. Via, va, metti la sedia. È nato il ubriaco. Non pensiamo a niente, ci ubriachiamo, va. Cameriere, dico, senti il signore là. Metto un litro? No, un litro è una pizza. Qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? E che non magna? Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? sì. Di stappare. Due mozzarelle e carozze, servino subito. Sono contro a migliare. Mo' ci mangiamo ste due mozzarelle e a te ti faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che sempre è stata tutta posta impressionata. Se, una guardata, se. Se. You must talk about your mother's illness. Ask your mother, please, if I can tell you about her disease. And I, doctor, ke nakwasita sa marubia, di isen he. Are kisa. Your mother has breast cancer, and she's had it for a long time. So disease is very advanced. She needs immediate treatment. I'm sorry. Voi siete a Cannes con questo cortometraggio, ma siete già stati a Cannes come sceneggiatrice e regista in passato. Con 2013, con More Than Two Hours, siamo stati a Cannes. The Baby è stato a Venezia. Quindi, insomma, avete fatto dei passaggi molto importanti in festival di tutto il mondo, fra i più importanti. Ora so che vi state cimentando anche con dei lungometraggi. Infatti ora siamo a Residence di Cine Foundation, che è una residenza a Parigi che invitano ogni anno 6 registi che vogliono fare il loro primo lungometraggio. Quindi ci hanno scelto per scrivere il mio primo lungometraggio. Quindi siamo a Parigi a scrivere il mio primo lungometraggio. Quindi significa che stiamo scrivendo un lungometraggio che giriamo magari tra 8-9 mesi. Se capisco bene, insomma, c'è una sponsorizzazione da parte della Francia. Voi che sì, siete iraniani ma adottati dall'Italia, rischiamo di perdervi. No, sempre noi siamo cresciuti in Italia, sempre Italia è la nostra seconda paese dopo Iran, quindi... Sì. Ma anche il silenzio, veramente... È un omaggio, era un omaggio nostro per ringraziare l'Italia per ospitarci per questi anni che siamo vissuti. Com'è stato il vostro approccio con l'Italia, non solo da artisti, da registi e sceneggiatori, ma proprio come esseri umani, come persone che arrivano da un paese complicato? Sì, siamo arrivati in Italia in un momento di 7 anni fa, e quindi sempre per noi era una bella esperienza, perché sempre da parte italiani siamo stati benvenuti molto bene. Per questo sempre, quando sono stato in Francia, sempre pensavo, dicevo ai miei amici che quanto mi manca Italia, perché io ho una esperienza come quando sono partito dall'Iran, quindi penso che adesso sono fuori dal mio paese. Quindi questo significa per me che ho avuto una bella esperienza in Italia, e questo per me è molto, perché prima di venire fuori dall'Iran pensavo che no, se vado fuori dall'Iran è un po' difficile, perché europei sono, dicevano così. Ma invece io... Cosa dicevano in Iran degli europei? Che sono un po' freddi, noi diciamo freddi, non vogliono comunicare, non hanno cultura comune con noi, niente. Quindi sempre abbiamo avuto questa paura che non possiamo comunicare, ma invece in Italia abbiamo comunicato molto più dell'Iran. Lei è lontano dal suo paese ormai da parecchi anni. Sì, più o meno 7 anni, perché sono uscito per andare a centro sperimentale in Italia, ma quando sono arrivato in Italia ero un anno più di, perché mi hanno detto che sei un anno più grande, quindi non ho potuto iscrivermi a centro sperimentale. Sono andato all'Università Roma 3, ho studiato al DAMS, quindi è passato 5 anni là, e il primo anno un'altra istituzione. La sua è una migrazione di tipo intellettuale molto diversa da quella a cui assistiamo in queste settimane, ma ovviamente rifletterete anche voi, e lo fate anche nel vostro cinema, nel suo cinema, su questa migrazione invece di tipo persone che scappano da situazioni di conflitto invece che da situazioni di grande povertà, no? In Italia e in Europa stiamo assistendo a quest'ondata, e il vostro cinema mi pare di capire che su questo in parte è disposto a riflettere. Noi siamo usciti in un modo molto molto gentile, molto normale per studiare, abbiamo avuto tanti anche supporti da anche l'università, anche le persone che ci hanno invitato, ma quando vuoi fare un film o scrivere qualcosa, noi abbiamo avuto le cose un po' simili, ma in questo caso tutti quelli che escono dal loro paese escono per una vita meglio, quindi fanno un'esperienza molto difficile per arrivare, quando arrivano non è un fine. Sarebbe un inizio ancora per loro. Voi siete andati via anche lei, Farnoush, dall'Iran, come ci raccontavate, un paese che è molto cambiato in questi anni, anche l'immagine di questo paese in Occidente è cambiata dal grande Satana, no? Adesso c'è questo accordo, ci sono anche trattative commerciali, ma l'Iran è cambiato, voi come lo percepite? Sì, anche io penso che è molto cambiato, perché io sono uscita dall'Iran nel 2010 e non sono ritornato per 5 anni. Quando sono ritornato, veramente ho visto, non dico un altro paese, ma è cambiato tanto, tantissimo. Tutto, anche cambiato bene, anche un po' qualche volta male. Si può lavorare molto meglio di prima, qualche volta anche meglio dei fuori dall'Iran. Per questo che stiamo pensando anche per ritornare, rimanere un lungo tempo anche in Iran dopo questi anni fuori dall'Iran. C'è un piatto che vi viene in mente che può raccontare dell'identità vostra, iraniana, ma anche ormai italiana o francese? No, adesso mi viene un piatto italiano, forse la pizza quattro formaggi, perché mi ricordo che almeno questi mesi con Ali, quando stavamo scrivendo questa sceneggiatura, non avevamo tanto tempo per cucinare. C'era una pizzeria vicino a casa mia che sempre noi andavamo lì e prendevamo ogni sera pizza quattro formaggi, e quando volevamo cambiare, no, pizza quattro formaggi, va bene. Alla fine, non lo so, ora che lei mi ha chiesto, mi è venuto questa pizza quattro formaggi. Anche per lei, Ali? Per me viene un piatto un po' più oriente, che si chiama Orme Sabzi, che è un piatto che mi piace molto, sempre anche mia mamma, perché anche questo film parla di una mamma, la mia mamma sempre faceva per me quando ero a casa, che si chiama Orme Sabzi, che è un piatto che è tipo un sugo con riso, è un sugo che va fatto con carne e verdure. È un piatto molto buono e speriamo che un giorno mangiamo insieme tutti. Ma io ora mi manca ora soltanto quella pizza quattro formaggi. Thank you. vi ringrazio per essere stati a cena con noi questa sera, per averci raccontato qualcosa del vostro cinema e della vostra esperienza in Iran e in Italia. Grazie ad Ali Asghari e a Farnoush Samadi. Buona serata. Grazie anche a tutti voi ascoltatori per averci fatto compagnia questa sera, serata cinematografica direttamente da Cannes con due registi italo-iraniani che hanno portato questo cortometraggio girato in italiano al Festival del Cinema francese. Io vi do appuntamento per Indovina chi viene a cena ancora una volta sabato prossimo sulle frequenze di Radio 24, sempre alle 23. Vi aspetto, buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little, that's the glory of love.